Salve a tutti, sono Stefania, sono sempre qui con Radio Big World, il popolo di Barabba. Mi addentro in un terreno particolarmente complesso, quello dell'educazione. Noi siamo ciò che respiriamo, ciò che viviamo, ciò che facciamo, ciò che incontriamo ogni giorno. E quindi dobbiamo prestare attenzione alle nostre azioni quotidiane. Prestare attenzione che cosa significa? Significa pensare prima di agire. Questo è un mio pensiero. Vorrei iniziare questa puntata e sviluppare questo concetto da due fatti che sono successi negli ultimi giorni, almeno sono su tutte le cronache dei giornali e delle televisioni. Le baby gang nel sud dell'Italia, non è importante la location dove vengono fatte queste cose, anche se ci dice molto da un punto di vista educativo, però sono i contenuti, quelli di cui vorrei parlare con voi. Cioè ragazzini, bambini anzi, perché addirittura hanno detto che alcuni hanno 10 anni, quindi veramente dei bambini che dovrebbero giocare, si uniscono per fare del male ad altri coetanei in maniera del tutto gratuito, anche se il male è sempre in maniera del tutto gratuito, non c'è mai una giustificazione al male. Questo sempre è il mio pensiero, maggiormente quando si tratta di bambini di 10 anni, 10, 11, 12 anni. Ma non solo questo è stato un episodio, se ne sono susseguiti altri, bambini che fanno veramente molto male. Potrebbero arrivare ad uccidere anche i loro coetanei. Ad uno è stata asportata la milza, quell'altro ha subito delle violenze non indifferenti. Pensate a quei ragazzini che hanno subito queste violenze, come poi potranno riaffrontare la vita quotidianamente con questo terrore di essere di nuovo aggrediti. Allora io mi chiedo, come è possibile che in una società civile, come pensiamo di essere, si possano sviluppare queste dinamiche? Onestamente tutto mi riconduce sempre, purtroppo, per fortuna non lo so, all'aspetto educativo. Andiamo a vedere questi bambini dove nascono e dove crescono, quali sono i loro modelli di riferimento. In alcuni bambini, in alcuni di loro, ho letto che i genitori, il 90%, erano tutti pregiudicati. Quindi i bambini che cosa hanno visto? Hanno visto e hanno respirato violenza e atteggiamenti di violenza. Quindi se non c'è nessuno nella strada di questi bambini che fa cambiare loro direzione, e che se non c'è nessuno, io penso alle istituzioni a questo punto, penso alla scuola, penso agli assistenti sociali, penso all'aspetto civile che dovrebbe porre un occhio di riguardo su queste dinamiche, perché poi il problema diventa sociale, chiaramente, oltre che umano, devastante per questi bambini, che è la prima cosa da tenere presente. Poi si riversa tutta la società. Il bambino picchiato ne è un esempio. Dove erano le istituzioni quando queste così chiamate baby gang si formavano? Perché questi bambini non si sono formati così dall'oggi al domani. Ci saranno state delle azioni di questi bambini che hanno dato nell'occhio agli adulti, gli insegnanti, se non c'erano i genitori, dove erano gli insegnanti? Ecco, queste sono tutte domande che io mi pongo, perché l'educatore è una figura importante, e se oggi vengono a mancare gli educatori, poi si arriva a queste conclusioni. Non sono fatti sporadici, ahimè. Sono fatti che purtroppo si riscontrano ogni giorno. Nel sud d'Italia, chiediamoci anche il perché succedono più spesso, insomma, perché la criminalità nel sud dell'Italia è più vasta. Dall'altra parte c'è stato un altro episodio con il quale si capisce bene il perché poi avvengono queste cose. Non mi ricordo dove, ma anche qui credo nel nord Italia, ma anche qui non è che sia importante dove, ma i contenuti. un bambino in classe ha tirato un libro all'insegnante. L'insegnante lo ha punito. E la reazione, per me sconcertante, davvero sconcertante, poi non ne hanno più parlato, ma mi piacerebbe andare a fondo su questa questione, perché è talmente di vitale importanza per tutti noi che non si può zittirla. Che cosa è successo? Che i genitori, chiamati dal professore che ha punito il ragazzo, i genitori hanno aggredito il professore picchiandolo. Ecco, io mi chiedo anche qui, come si stanno sviluppando le cose? Certo, sono percorsi estremamente complessi, difficili, che vengono regolati da un groviglio di leggi dalle quali spesso è estremamente complesso uscirne e uscirne bene. Però non se ne è più parlato, quindi mi chiedo, è stata fatta la denuncia dal professore? Questo sì, lo sappiamo. E poi questo bambino rientra in questa famiglia dove i genitori lo applaudono e gli consentono di tirare i libri oggi, domani che cosa potrà mai fare questo bambino? Quindi mi chiedo come possa andare avanti questa diatriba tra professore e genitori. Ci informeremo, perché ad oggi non c'è stato nessuno sviluppo. Quindi la scuola e i genitori, che sono la famiglia e la scuola, che sono due punti di riferimento vitali e importantissimi per un bambino e per il futuro uomo o donna, insomma. Oggi che cosa ci siamo inventati? Da un punto di vista sicuramente molto vantaggioso, ma dal punto di vista umano non c'è niente di più devastante anche in questo caso. Ci siamo inventati i rapporti genitori-insegnanti attraverso internet, no? Oggi è tutto meccanizzato, il genitore, se vuole sapere se il bambino è a scuola, quanto ha preso, va su internet e lo vede. E qui è una cosa fantastica, no? Perché i genitori lavorano, quindi non hanno tanto tempo per andare a parlare con i genitori e quindi usano questo mezzo fantastico. Ci siamo dimenticati però che internet non dice come si comporta il bambino, se è stato bene, se è stato male, se socializza con i compagni, se quel giorno è stato in un angolo perché non gli andava di stare insieme agli altri, non dice tutte queste sfaccettature e il genitore dal canto suo se ne guarda bene dal chiederlo, perché purtroppo, ahimè, molti sono i genitori che fino ad oggi hanno voluto sapere solo il voto del bambino, quanto ha preso, quanto c'ha, otto, bene, a posto. Se poi il bambino è un bulletto, se poi è un bambino che disturba in classe, se poi è un bambino che maleducato, che dice le parolacce, questo non vuol dire, l'importante è che abbia otto in quella materia. Quindi che non si sia tenuto conto di questo aspetto quando è stato messo in essere tutta questa struttura di internet è una cosa molto grave, perché i genitori e gli insegnanti devono comunicare faccia a faccia, si devono guardare, si devono confrontare, e visto che già i genitori erano latitanti sotto questo punto di vista, ecco, chi ha fatto le leggi della scuola ne doveva tenere conto, perché allora il rapporto relazionale viene sempre meno, non ci si parla più, anche se si pensa che siamo tutti collegati, non è vero, non ci si parla più, siamo sempre più soli, e questo, essendo un po' visionari, immagina dove possa portare: all'isolamento più totale, allo sviluppo di baby gang, allo sviluppo del bullismo. E poi facciamo i progetti per le scuole, una tantum, progetti spot che insomma servono davvero il tempo di uno spot. Io vi lascio con questa riflessione. Oggi ho parlato di qualcosa davvero che mi addolora tanto, perché mi sto rendendo conto che le scelte che vengono fatte da chi ci amministra sono scelte sempre frettolose, non sono visionarie e soprattutto non tengono presente che al centro del mondo c'è l'uomo nella sua interezza. Ecco, viene preso in considerazione altre cose, ma non l'uomo. Vi saluto e al prossimo giovedì. Grazie da Stefania.